Non ho ancora letto il relativo romanzo, ma apprendo dalla recensione di Corrado Augia su Repubblica di lunedì che il commissario Montalbano, l'ormai leggendario personaggio di Andrea Camilleri, si sente, come diciamo dalle nostre parti, un po' giù di cartolina. Al di là delle prospettive professionali tutt'altro che esaltanti che gli si aprono, visto che vi è di dover fare applicare la legge Bossi-Fini deprimerebbe chiunque, la situazione politica generale non gli va giù. Tanto è vero che sta seriamente pensando di cambiare mestiere. Per noi lettori sarebbe una catastrofe, ma poveraccio ha lo stesso tutta la mia comprensione e suppongo la vostra. Se in un paese normale ci si dovrebbe sforzare di distinguere tra le istituzioni e chi le gestisce, l'Italia, patria per eccellenza del conflitto di interesse, proprio normale non è. Dalle nostre parti è uso confondere il rispetto per la legge con l'ossequio per chi comanda, e se un povero commissario, dopo essersi barcamenato tutti questi anni, comincia a non poterne più di Berlusconi e dei suoi, posso dire soltanto che, no, che lo capisco. Quello che capisco un po' meno, francamente, è l'atteggiamento in merito del suo creatore, perché nei confronti di Berlusconi, come sapete, Camilleri non ha mai nascosto una certa lodevole insofferenza sul piano politico e o personale. Eppure la cosa non gli ha mai impedito di pubblicare i suoi libri presso una casa editrice che con l'uomo di Arcore qualcosina a che fare ce l'ha. In effetti, se è vero che la prima edizione dei romanzi di Montalbano esce di regola presso un editore di Palermo, è altrettanto vero che le fortunate antologie di racconti e una recente riedizione di gran lusso dell'opera Omnia si fregiano inesorabilmente del marchio Mondadori. E tutti sappiamo chi appartiene a quel colosso dell'editoria e chi lo dirige. E se una casa editrice di libri non vi sembra abbastanza qualificata ideologicamente per inferirne giudizi sulla coerenza dei suoi autori, oggi vanno le sinergie. E mi sembra di ricordare che qualche tempo fa dei titoli dello scrittore di Porto Empedocle siano stati impiegati anche per la promozione di Panorama, che è una testata la cui impostazione politica dovrebbe far nascere negli anti-berlusconiani doc qualche ragionevole dubbio sull'opportunità di contribuire a promuoverla. Naturalmente bisogna considerare il fatto che, promozioni a parte, Camilleri non è il solo a trovarsi in quella situazione. Per restare nel campo che a me è più congeniale di altri della narrativa di genere, di autori ideologicamente di opposizione che non riescono a sottrarsi al fascino di Segrate, se ne trovano davvero tanti. Non voglio far nomi per non correre il rischio di dimenticarne qualcuno, ma non si può negare che i personaggi del nuovo noir di sinistra italiano siano poliziotti che hanno somatizzato fino alle ultime conseguenze il rifiuto della gerarchia, ex marescialli dei carabinieri dal volto umano, transfughi più o meno schizzati dal mondo della cultura antagonista e simili, hanno tutti una certa tendenza a militare sotto le bandiere montadoriane. Anzi, se mettiamo nel conto anche Rinaudi e la Frassinelli, che la Mondadori in buona sostanza appartengono, e la Tropea, che vi è strettamente legata per via della distribuzione, potremmo tranquillamente concludere che l'intero genere in lingua italiana sottostà a un rigidissimo monopolio e che l'indipendenza ideologica dei suoi cultori, quindi, deve fare i conti con quella che una volta si chiamava la struttura economica. Quegli scrittori obietterebbero probabilmente che non è colpa loro se il sistema editoriale è quello che è. Potrebbero farmi notare che operando essi su un genere che s'ascrive alla cultura di massa devono rivolgere di necessità a un pubblico di lettori quanto più possibile vasto, che non possano permettersi il lusso dell'editoria alternativa o della produzione autogestita. Potrebbero sostenere, non senza ragione, che allo stato attuale il sistema prevede abbastanza mediazioni da garantire da troppe pressioni indebite. E potrebbero osservare infine che nella stessa barca si trovano dei personaggi le cui responsabilità ideologiche sono le più esplicite delle loro. In fondo, per i tipi del presidente del Milan scrivono anche illustri dirigenti della sinistra, a partire dal leader Massimo, nel senso di D'Alema, e nessuno ha mai avuto niente da obiettare. avrebbero ragione probabilmente, anche se una cosa è il mondo della politica che vive per sua natura di compromessi e di scambi e un'altra quello della narrativa che dovrebbe essere un mondo di libertà in cui l'autore, non disponendo di altri poteri che quelli che trae dalla sua capacità di scrivere, ha in compenso il sacrosanto diritto di scrivere tutto ciò che gli pare. Ma ad impossibilia nemo tenetur, nessuno è tenuto all'impossibile, scrivere senza che qualcuno ti legga non serve a niente, e se per raggiungere i propri lettori bisogna adattarsi a certi compromessi di facciata, beh, si può anche rassegnarsi a farlo. Sarebbe compito d'altri far sì che da certi intrecci il paese presto tardi si liberi. E la contraddizione semmai potrebbe essere considerata reciproca, perché se un Camilleri deve rassegnarsi a che il suo personale successo giovi anche agli affari del Presidente del Consiglio, anche il Presidente del Consiglio deve abituarsi all'idea che la sua casa editrice pubblichi dei volumi in cui la sua persona e la sua politica sono additati alla pubblica esecrazione. Tutto andrebbe bene dunque se non fosse che l'idea di leggere delle storie che parlano male di Berlusconi, sapendo che stringi ne pubblica lui, e beh, un po' di fastidio finisce comunque per darlo. Anche perché la contraddizione sarebbe davvero reciproca se gli interessi di quel signore fossero di natura esclusivamente ideale. Ma visto che sappiamo tutti che la politica, dal suo punto di vista, è uno dei tanti strumenti per acquisire il quadrino, non si vede bene che cosa ci sia di contraddittorio, dato il sistema di priorità, nel mettere sul mercato dei libri che vendono bene e contribuiscono alle entrate di cassa. È vero che la contraddizione tra capitale e lavoro è strutturale nei sistemi capitalistici, ma se ci facciamo rientrare senza residui anche gli intellettuali, allora sì che ci troviamo nelle canne fino agli occhi, perché il capitale deve e può anche fare a meno, ma noi notoriamente no.